sudario scende lungo la sua schiena, ed ogni giorno ed ogni notte sempre al centro della scena. Lui porta a spasso i suoi 30 anni per tutte le città d'Europa, e con la scusa dell'esotico è circondato dalla toppa. Papà si chiama Pablo, studente Erasmus, della mia birra ne ha preso un sorso. 5 anni di scienze politiche, di cui 7 fuori corso. Mi ha assicurato di essere il migliore a giocolare con il fuoco. Poi mi ha guardato con la faccia di chi dice non è cosa da poco. A Pablo gusta il botellón, quando passa le gita spalle il corazon. Il soggetto è solo un'arma di seduzione, giocolare por la calle è la sua passione. A Pablo gusta esta canción, nei suoi occhi si vede la rivoluzione. Chi conosce altre parole che finiscono per on, Pablo riuscirà a dirmene un milion. E come tutte le vite d'altronde, anche quella di Pablo tiene un costo. Come il suo aspetto che si trasandato, però al tempo stesso ogni cosa al suo posto. Come quei giorni passati sui prati a pestare sui bonghi con mucho gusto. Come Giubito si rulla tequila e quel nettare chiuso a pressione nel fusto. L'estudiante così comincia a metter da parte un poco di dinero. Mi ha confessato che così facendo potrà girare il mondo intero. E da Valencia la sua famiglia è contenta, si sia dato una sveglia. E che trabajo migliore per Pablo, girare col mestolo la paella. A Pablo gusta il botellón, quando passa le chicas parte il corazon. Il soggetto è solo un'arma di seduzione, giocolare con la calle è la sua passione. A Pablo gusta esta canción, nei suoi occhi si vede la revolución. Chi conosce altre parole che finiscono per on, Pablo riuscirà a dirmene un milion. D'estate di Pablo non si vede neanche un ciuffo. Le foglie cadono incontro l'ispanico con un berretto che sembra un puffo. In compagnia di 2 squinzi piacenti, dall'aria sensuale ed un poco spavalda, e di una cabrio sedili in pelle del tipo pappone in Costa Smeralda. Addio mio amico, è arrivato il tempo e parto per il nord. Io lo guardo un pochito, dopo gli sorrido e gli lancio un buona sorte. E forse un giorno ci proverò anch'io a diventare un eroe della ristorazione. Ma per intanto vi canto di Pablo che a spalar paella in un'altra nazione. A Pablo gusta il botellón, quando passa le chicas batte il corazon. Il soggetto è solo un'arma di seduzione, giocolare con la calle è la sua passione. A Pablo gusta esta canción, nei suoi occhi si vede la revolución. Chi conosce altre parole che finiscono per on, Pablo riuscirà a dirmene un milion. Queste cose qui, ah vedi, è tutto naturale, l'ho fatto con le mie mani. Una porcheria assoluta che sa di uno schifo mondiale. Ma dammi un paio di biscotti che hai comprato lì fuori, che almeno quelli so che sono buoni, no?